perché di questo titolo? Perché in un momento, in un periodo storico, insomma, in cui non si hanno più certezze, in cui tutto cambia molto velocemente, in cui si fa fatica a stare dietro alle cose, il mondo è sempre più complesso, no? Si fa anche fatica a interpretare le cose, a conoscerle subito per tempo. Una certezza ci vuole, dobbiamo attaccarci, appigliarci a qualcosa. L'unica certezza è che non ci sono più le mezze stagioni, così come si dice da molto tempo. Possiamo scherzarci un po' su questa frase, un luogo comune, qualcosa di vero c'è. Io devo dire, tanto per iniziare, che in realtà a livello meteorologico, è così che è nata, no, questa frase, forse questo è stato uno degli inverni più veri degli ultimi anni. In realtà è un inverno vero, e chiedo conferma a Paola Calvetti, che è qui mia ospite per questo debutto totale. Paola, ciao. Allora, ciao a tutti, ciao Roberta. Paola Calvetti, che è giornalista, scrittrice, sta avendo grandissimo successo il suo ultimo libro, Noi Due Come Un Romanzo, pubblicato da Mondadori, che poi la vita di Paola Calvetti è più che un romanzo, è più un romanzo dei tuoi romanzi, bisogna dire. Beh, con l'età uno accumula esperienza. Ma tu già da tempo, è inenarrabile la sua storia, ma adesso parleremo soprattutto di altre cose. Paola, secondo te è vero che non ci sono più le mezze stagioni o...? Ma guarda, io sono una freddolosa, per cui mentre venivo qui senza stivali ma con scarpe nel freddo di Milano, vi posso dire che la stagione c'è, in c'è, pieno inverno, non è mezza stagione, anche se secondo me ci sono degli sprazzi di voglia di primavera. Sì, tanto, sì, quel si sole sente, pallido che a Milano almeno altrove un po' più. Io ricordo, allora dico subito alle ascoltatrici e ascoltatori che c'è un numero verde per voi se volete intervenire. Io mi auguro di sì, e sono curiosa di vedere chi ci porta a battesimo. Chi porta a battesimo? Non ci sono più le mezze stagioni. Il primo, la prima ascoltatrice che chiamerà, il numero verde 800 24 00 24, ripeto il numero verde per intervenire qui, andiamo avanti fino alle 3, è 800 24 00 24. Cominceremo a muoverci tra poco sull'attualità, sulle tante notizie di questa settimana, per avere delle angolazioni diverse, sia grazie a voi sia a Paola Calvetti, oggi mia ospite pensante. Cercherò di avere ogni volta un ospite pensante che col suo punto di vista, visto che in genere sono scrittori e scrittrici, hanno tante cose da dire e hanno una loro visione ovviamente del mondo, no Paola? Poi ci dirai anche, ti ho chiesto di portare una buona notizia, l'ho mi portata. Dirai tra poco, sì, sì. Tra tutte le cose negative. E chiedo anche a voi, sia se volete giocare sul titolo per questa prima puntata, non ci sono più le mezze stagioni, cos'è che secondo voi è un segnale, sia a livello meteorologico ma come metafora della vita in genere, cos'è che cambia, che non è più come prima, sia se volete intervenire su una qualche notizia di questa settimana che vi ha colpito in modo particolare, o su quello che man mano andremo ad affrontare, sulle cose con cui rifletteremo insieme a Paola Calvetti. 800 24 00 24. Ma prima di cominciare a sollecitare Paola su alcune notizie, su alcuni titoli di questi giorni, io vorrei subito chiamare un ospite simpaticissimo, graditissimo, originale, ma che è un grande esperto, il maggiore in questo momento in Italia di meteorologia, che è il colonnello Mario Giuliacci. Colonnello! Ciao Roberto, saluto a te gli ascoltatori di Radio 24. Caro colonnello Mario, colonnello Giuliacci, come ti devo chiamare? Insomma, io ho voluto dare questo titolo perché mi è simpatico e perché è un po' una metafora dei nostri tempi. Ma se tu dovessi dire, è vero che non ci sono più le mezze stagioni? Io in questo inverno non mi ammalavo da 5-6 anni e ho ancora la voce un po', come senti, un po' grattosa. È un inverno vero questo? Questo è un inverno vero, quindi diciamo è un'eccezione in quella che è stata la cadenza degli inverni degli ultimi 20 anni, ma 30-40 anni fa gli inverni erano così. Posso portare un esempio: 5 nevicate in pianura a Milano. Adesso cito Milano per dire una grande città, ecco, voglio dire, ma in genere sul nord Italia, 5 nevicate in pianura in un inverno, no, come quelle di quest'anno, una roba che non e si la vedeva. Sesta probabilmente sarà quella di domani. Domani, no? Vuol dire che dobbiamo aspettare domani? Paola, nevica a Milano, in Piemonte, Lombardia, parte del Veneto. Bene, tanto così diamo anche questa anticipazione. Beh, sei nevicate in pianura nell'inverno, bisogna andare 40-50 anni indietro. Pensi, per avere un dato statistico di questo fatto. Però giustamente, dando uno sguardo agli ultimi 20 anni, io capisco che la gente dica sì, le mezze stagioni non ci sono più. Per quale motivo? Io credo innanzitutto per un aspetto nostro psicologico. Le comodità domestiche, no, ci hanno tolto il morso del caldo e del freddo. Cioè, in inverno non sentiamo caldo perché siamo rintanati a con 25 gradi magari addirittura negli uffici o nelle nostre case. Sì, un po' case. Caldo, è un po' secco, negli ambienti chiusi, sì. Ecco, in macchina c'è il condizionatore acceso e quindi dunque si va a parte quei 2 minuti per uscire di casa, entrare in macchina e quel minuto per uscire dalla macchina e entrare in ufficio non sentiamo più il morso quindi del freddo. Quindi stai dicendo che in parte è vero ma in parte è perché sì, abbiamo strumenti per riscaldarci. Certo. In estate ugualmente, no? Perché vuoi dire, nelle nostre case il condizionatore, chi ormai non ha il condizionatore, io odio il condizionatore ormai d'estate. In macchina c'è il condizionatore, non assaggiamo più il morso del caldo e quando siamo al mare ovviamente invece ci fa piacere avere il caldo e quello ce lo dimentichiamo ovviamente, però in parte c'è una verità, ossia gli ultimi 20 anni sono stati molto molto caldi in estate, cioè estate molto più caldi, inverni dove il cappotto era ormai un abito desueto, no? Come ha ricordato la scrittrice Paola Calvetti, sì, perché è un po' Paola leggero Calvetti, io ormai certo, certo, gli stivali non si usano quasi più per le donne, eccetera. Allora si ha la sensazione che si passi da una stagione tiepida, qual era e qual è stata fino adesso l'inverno, a una stagione caldissima, qual è l'estate, quindi manca una stagione, non la mezza stagione, manca la stagione del freddo, non so se rendo l'idea. Paola, vuol dirti quello? Paola? Volevo dire che in realtà quello che manca, per esempio, a me è la mezza stagione nel senso della primavera e dell'autunno, che mi sembrano sempre più brevi. Non so se il colonnello può confermare dal punto di vista scientifico, meteorologico, no, quel bell'autunno quando finiva quell'incedere, così finiva l'estate, si tirava fuori il primo golfino, durava molto di più quando io ero bambina, e lo stesso il risveglio della natura attraverso la primavera. Però devo dire che il mio punto di vista è purtroppo molto parziale, perché essendo una milanese ho vissuto i cambi di stagione a Milano e secondo me Milano è, come dire, è al di là di ogni classifica, di ogni statistica, nel bene nel male, diciamo. Nelle stagioni, intendo dire. Sono d'accordo, questo non fa altro che ribadire quello che dicevo prima, vuol dire mettere il golfino pesante eccetera, significa che assaggiavamo un po' il morso del freddo, no? Adesso non c'è più, l'inverno è tiepido, la primavera parte già calda, non so se mi spiego. Esatto, quindi sì. Si arriva poi all'estate che è caldissima e quindi non si avverte il freddo, no? Quindi allora dobbiamo ritrovarle dentro di noi le mezze stagioni. Certo, a parte questo e a parte voglio dire quel discorso sulle comodità domestiche che non ci fanno assaggiare il freddo, snaturano un po', snaturano un po' le temperature, le stagioni, mi dicevamo. Però senti, adesso facciamo di solito si chiedono le previsioni da qui a domani o al massimo una settimana, ma da qui ai prossimi anni, tu sei di quelli che dice effettivamente si surriscalderà il pianeta, come sembra, insomma, dalla gran parte della comunità scientifica, oppure ritornano le mezze stagioni, sono cicli e ricicli, qual è la tua previsione? L'opinione direi ormai che sta prendendo piedi è che in realtà questo surriscaldamento crescente del pianeta sta subendo una battuta d'arresto, almeno nei prossimi 10, 15, chissà 20 anni, per altri motivi che adesso non sto qui a dilungarmi, ma legati prevalentemente al Sole, che è stato sottovalutato come influenza sul clima del pianeta. Ebbene, i prossimi 10-20 anni probabilmente questa strombazzata teoria sul crescente aumento del temperatura del pianeta dovrà essere ridimensionata. È vero, ci sono i gas serra che stanno aumentando, questo è vero, ma c'è anche la natura che riesce a smorzare questo crescente temuto aumento. Meno male. Posso dire, colonnello Giuliacci, intanto ricordo il numero verde 800 24 00 24, c'è Elisa da Lodi che quindi è quella che ci porta a battesimo e tra poco sentiremo, ma tra le altre cose questo buco dell'ozono non se ne parla più. Com'è possibile? Dove è finito il buco? No, il buco c'è, si sta in parte, si è stabilizzato, anzi in parte si sta richiudendo, però il buco dell'ozono non è responsabile del surriscaldamento del pianeta. Il buco dell'ozono è un effetto temuto, perché questo strato di ozono che si trova tra i 20 e i 50 chilometri di altezza si chiama l'ombrello della vita, perché filtra gli ultravioletti, quelli più violenti, quelli che ci farebbero veramente male, che potrebbero scatenare tumori della pelle o cataratte. Quindi gli ultravioletti più violenti vengono bloccati da questo strato e passano solo gli ultravioletti, quelli leggeri, quelli quindi che danno la tintarella. Protettivo, questo ombrello si era un po', diciamo, strappato, ma adesso qualcuno lo sta cucendo. Il rischio di più tumori, soprattutto della pelle, quindi non un'influenza sul clima del pianeta. Col peggioramento del clima del pianeta, il buco dell'ozono non c'entra Niente. Ecco. Quindi, però, allora, colonnello Giuliacci, per i prossimi 20 anni possiamo dire che sì, possiamo dire ancora tra i denti, ma non ci sono più le mezze stagioni, però ancora il tempo è quello che abbiamo conosciuto, diciamo, nei tempi più. Sì, io credo che ci sia un tentativo di ritorno della natura a quelle che erano le stagioni della una volta, perché il sole, che è stato trascurato come protagonista, si scopre che in realtà è un protagonista nel clima del pianeta, forse quanto se non di più dei gas e serra. Questo bisognerebbe che un tantino i talebani dell'una e l'altra parte nel campo climatico cominciano a prenderne atto. Senti, colonnello Giuliacci, siccome ormai oggi con l'esordio, se tutto va bene, andrò avanti in questa trasmissione, ci sono più le mezze stagioni, io continuo, questo è il titolo, sempre sarà, ogni tanto però mi aggiorno con te per sapere se posso sempre dirlo con sicurezza oppure se devo un po' mitigare la cosa, certo, va bene? Sarò sempre disponibile per le tue richieste. Grazie mille, grazie colonnello Mario Giuliacci. Un saluto a te e agli ascoltatori di Radio 24. Buongiorno. Grazie. E a proposito di ascoltatori, Paola, abbiamo la primissima in questo programma all'esordio totale all'800 24 0024, che è Elisa da Lodi. Fammi sentire la tua voce, Elisa. Buongiorno a tutti. Buongiorno e congratulazioni per il primo giorno. Grazie. Allora, può essere prematuro, ma se già lo dici, insomma, è un motivo di conforto e di incoraggiamento. Se siete su Radio 24, secondo me, siete sulla radio giusta. Anche tu allora, Elisa. Senti, cosa stai facendo in questo momento del sabato? Perché mi incuriosisce anche sapere a quest'ora le persone. Sono in tangenziale di Milano, la Ovest. Tanto per cambiare, sì. Com'è il traffico? Sono ferma, non sto guidando. Sei già ferma? Sì, non per traffico, per la telefonata. Per sicurezza, ovviamente. Brava. E sto andando a un corso di teatro che è tenuto a Busto Arsizio da un professore di Milano molto in gamba. Bene. Allora, volevo dire, a proposito delle mezze stagioni, sì, che gli alberghi non accolgono la stagione, cioè, ovvero un paio di notti fa, mi spiego meglio, un paio di notti fa ho dormito in un albergo a Milano, dunque con, non so se avevo... Che non era il Four Season, quindi quattro stagioni, ecco, non era il Four Season. No, non era il Four Season. La freddura. Era un albergo molto, molto bello sui Navigli e dunque c'erano 30 gradi alle 7 di sera quando sono entrata in stanza, proprio la temperatura del termostato era 30 gradi. Io vabbè amo il freddo, quindi dormire al fresco, stare in un ambiente freddo. Abbastanza freddo, quindi ho abbastanza. Non potremo dormire insieme, Elisa. No, devo dire. Ho abbassato a 18. Sì. Però secondo me le impostazioni del termostatico erano comunque sballate. Andate, o loro regolano, fanno partire comunque il riscaldamento, perché ho dormito tutta notte con l'arsura proprio. E rispetto a questo, volevo dire, accogliamo gli eventi meteorologici. Come diceva il colonnello Giuliacci, no? L'hai sentito? Tipo la neve, appunto, anche se crea grossi disagi, perché io non lavoro a Milano e abito fuori, per cui spostarsi su Milano con la neve è sempre un disagio. È bella perché rende la città, soprattutto Milano, completamente diversa, no? Più tranquilla, più calma, tutti sono costretti a essere un po' più morbidi anche nei loro gesti, nei loro movimenti, nelle pretese anche di arrivare presto da una parte o dall'altra, tutto più silenzioso, però effettivamente... E poi, vabbè, mi ci metto in mezzo, però tutto questo arrabbiarsi perché che sbuffare, no? E che caldo, e che freddo, e non se ne può più, e questa neve quando smette, quando nevi un giorno su praticamente 300. Non sopportiamo più nulla, dici, di quello che dovrebbe essere naturale, almeno per quanto riguarda la natura, no? La meteorologia. Sì, cioè comunque, non so, reimpostarsi anche in base al tempo, perché ormai noi siamo abituati che, come diceva il colonnello, uno... fa un po' come vuole, no? Cioè, c'è l'aria condizionata, c'è il riscaldamento, per cui non è che ne so, viene in mente in montagna, amo molto la montagna, andare in montagna e ti svegli il mattino con l'acqua ghiacciata finché non hai acceso la caldaia. È montagna vera, dici? È montagna vera, sì, non bisogna farsi del male, cioè le comodità vanno bene, però ecco... Senza abusare, senza esagerare. Elisa, io ti ringrazio moltissimo di aver chiamato, sei stata la prima in assoluto di questa mia trasmissione che nasce oggi. Ti ringrazio, ti ricorderò nei miei archivi, nei miei annali. Elisa da Lodi, lo scriviamo con Paola Calvetti. Elisa, adesso c'è la viabilità, così anche tu, riprendendo il cammino con la tua auto, puoi sentire un po' come sono le condizioni delle strade, va bene? Va bene. Grazie Elisa. Teatro. Ciao, grazie a te, ciao Elisa. Roberta Giordano sempre con voi, c'è Paola Calvetti qui in questa primissima puntata di Non ci sono più le mezze stagioni, scrittrice col suo libro Noi due come un romanzo, poi ne parleremo, ma vedo che chiamano diversi ascoltatori, quindi poi vorrei lasciare spazio anche a loro. Sempre il numero verde 800 24 00 24. Stiamo un po' giocando sul titolo, visto che è la prima puntata, però adesso tra poco ci spostiamo anche sull'attualità. Se voi volete esprimere un vostro pensiero su qualcosa che è effettivamente segno dei tempi, di qualcosa che non è più come prima, insomma, potete tranquillamente raccontarlo, così intanto entriamo un po' nel clima di questa trasmissione. 800 24 00 24, dicevo, oppure c'è anche il numero per gli sms, chi preferisse una via un po' più silenziosa, le vie brevi, appunto, che è 349 238 6666. Paola, allora tra poco con te vorrei parlare di un po' di notizie della settimana, sentire un po' il tuo punto di vista di scrittrice su queste cose. Vabbè, c'è stata la questione degli stupri, la giustizia italiana lumaca, diceva il presidente della Corte di Cassazione che i processi da noi sono più lenti che in Africa, che è veramente vergognoso, non per l'Africa ovviamente ma per noi, e il traffico di organi di minori in Italia denunciato da Maroni, poi i preti negazionisti, l'uso straordinario, abuso di cocaina, sentiamo il caso Battisti, tantissime cose. Però prima vorrei collegarci con un pianeta. Riflessioni da Marte. Ecco, a proposito di Non ci sono più le mezze stagioni, anche le donne, cara Paola e ascoltatori, non sono più quelle di una volta. Adesso pretendono, pensate, persino di avere giustizia quando vengono violentate. Una volta almeno subivano e stavano zitte, ora in molte continuano, moltissime, a stare zitte, ma ci sono alcune che appunto hanno questa pretesa che i loro violentatori, italiani o stranieri che siano, vengano arrestati e scontino una pena adeguata in prigione, possibilmente non quelle ridicole per quell'1% poi che viene condannato. Pretendono di avere giustizia anche quando questi poveri disgraziati che le hanno violentate alla fine, dopo essere stati ricercati per giorni e giorni, confessano, no? Perché messi alle strette, costernati, dispiaciuti, pentiti, collaborativi, come li hanno definiti. Sì. Niente. Le donne violentate pretendono giustizia lo stesso, anche quando magari il violentatore è sempre stato un bravo ragazzo, no? Ti dico, come è sempre stato un bravo ragazzo che magari aveva giusto alzato un po' il gomito quella sera, quel giorno aveva preso un po' di droga, insomma un errore, no? Può capitare a tutti, per carità. Eppure niente, queste vogliono comunque giustizia, è una cosa inaudita, ma com'è tra l'altro che guidare in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti nel caso di incidente, collisione a terzi, omicidio colposo, viene considerato ora un aggravante, mentre violentare sotto effetto di alcol o droga è quasi considerato, non so se avete detto, un po' un attenuante. Insomma, un paese ben bizzarro questo. E poi, sempre visto da questo pianeta, vedo quel caso di quel vescovo, un tale Don Floriano Abramovic di 47 anni, che è capo della comunità lefreviana del nord-est qui in Italia, che dice: io so che le camere a gas sono esistite per disinfettare, ma non so poi dire se abbiano fatto dei morti oppure no. Ma insomma, in quale millimetrica parte del suo essere questo vescovo si può dire cristiano, se si passano degli esami per diventare vescovo, non so. Ma soprattutto, su quale pianeta è vissuto sinora? Sicuramente e per fortuna non qui su Marte. Ecco Paola. Beh, mi sembra che sia anche giusto, tra virgolette, non metterla in ridere, ma ironizzare, perché sono tali i paradossi, no? Di questo, ma io vorrei parlare di buone notizie. Sì, infatti mi ti ho chiesto di portare una buona notizia. Talmente di nere, vediamo se coincide con la mia, perché io in questa settimana mi sono concentrata su una cosa in particolare, ho detto questa è una notizia splendida, epocale, che viene da un uomo che secondo molti, farà grandi rivoluzioni. Sì, devo dire che siamo arrivate con lo stesso ritaglio, trattato anche dello stesso giornale, ma comunque siamo in sintonia. Ne hanno parlato tutti e non è assolutamente per fare le femministe oltranza, però è anche una risposta. È una parolaccia, mi sembra anche giusto. No, ma femminista da sempre, ista. No, questa è una buona notizia, oggettivamente una buona notizia. Non può avere, come dire, contrasti, no, non può contraddire niente. Inconfutabile, è inconfutabile. E cioè la prima legge firmata dal presidente degli Stati Uniti Barack Obama sancisce la cioè dice basta alle discriminazioni in busta paga, quindi in qualche modo tra uomini e donne ovviamente, in qualche modo, voglio dire, sì, questa notizia non viene da Marte ma viene da Venere e trovo che sia questa la cosa più straordinaria che sia successa, perché non ha cominciato con teorie, non ha, come dire, esordito con dei proclami, ha fatto una legge. L'ha fatto, è la prima legge poi della giorni sua, due, in cui dice che un uomo e una donna, e lo ha fatto dedicandola anche alle sue figlie, dicendo io voglio che le mie figlie, quindi come metafora di tutti i bambini, tutti gli individui, abbiano le stesse opportunità. Il famoso nastro di partenza che deve essere, come dire, uguale per tutti. Certo, non che uno corra... partendo quindi, dai blocchi indietro. Mi sembra oggettivamente la più bella notizia della settimana. Concordo. Mi auguro, pur essendo in un paese dove oggi tutti i giornali parlano, come dire, danno la visione europea, italiana, e soprattutto danno i numeri, nel senso che ci danno le statistiche. In Italia, qui la stampa oggi lo riporta intervistando anche delle donne, la differenza di stipendio a parità di impiego tra un uomo e delle donne è del 16%, quindi in Italia, una media di pesante, 4.000 euro l'anno in meno nelle tasche delle lavoratrici, che sono 28.000, cioè 28.000 la media di guadagno contro i 24.000 delle donne. Quindi la forbice è più piccola, tra l'altro questo è ancora peggio, perché la forbice tra uomo e donne è più piccola fra i dirigenti, ma come è noto di dirigenti donne ce ne sono meno di dirigenti uomini, ecco. E si allarga invece nelle attività commerciali, quindi quante donne gestiscono negozi, fanno le commesse, vendono, cioè sono un'attività, diciamo, che contempla numerosi milioni di lavoratori. Terziario, aumenta nelle mansioni intellettuali, nelle quali, come dire, ci siamo, il divario ancora più grande, no? Il 18,8%, tra gli operai, cioè tra i lavori, come dire, non meno retribuiti ma certamente più faticosi di quelli intellettuali, è del 20,8%. Gli operai, quindi, specializzati in particolare, signora, gli uomini, ministri e signori che potete, per favore adeguatevi e cambiamo le cose. Barack, veramente la prima legge che ha firmato dopo pochissimi giorni, insomma, speriamo che sia il buongiorno si vede dal mattino, Paola, no? Vediamo se questo presidente così caricato di aspettative poi ha iniziato molto bene, almeno dal nostro punto di vista, vedremo. Però voglio dare subito spazio a un'altra ascoltatrice. Intanto mi dispiace per Ezio da Cavi di Lavagna, mi pare, non so se è caduto la linea oppure si è un po' stancato di aspettare, perdonate, proprio all'inizio, e quindi un pochino bisogna entrare in argomento. 800 24 00 24, sentiamo Leda, un'altra donna. Sono felicissima di avere delle Leda. Donne come naturalmente bello, Leda il cigno, vero? Bellissimo Leda. Polarmente felice fra il cigno e e Pasqua. Mi chiamo Pasqua Leda. Ah, bellissimo. Fra il pagano e che genitori simpatici. Mia mamma mi ha dato un nome pagano, mio padre è cristiano. Si sono messi d'accordo, insomma, in qualche modo la par condicio, ecco. Simbolicamente. Sì. Felicemente seconda, anche perché è proprio anche il mio ruolo, così, quello di essere sempre seconda in qualche modo, secondo genita, secondo di sostegno, però insomma anche i secondi servono. Ma come no, caspita. Mi è piaciuta di questo. Quest'anno mi ha restituito i profumi dell'infanzia, la neve, il freddo, anche se è vero che non abbiamo più le stufe su cui infilarci i piedi, non aspiriamo più come regalo natalizio le calzamaglie rosse. Io ho avuto da bambina un mio vicino di casa che mi ha regalato un paio di calzamaglie rosse, aveva 18 anni col suo primo stipendio. Penso. Bellissima questa cosa. E te ha fatto piacere, immagino, o no? Credo credo di aver avuto uno sguardo sognante di fronte a queste calzamaglie rosse, perché il discorso del freddo, di sentire il freddo così da stagioni, no? Oltretutto non ci fa neanche bene alla salute non sperimentare questo vasocostrizione del freddo e questa vasodilatazione del caldo, non ci fa bene alla salute. Ci farebbe bene adattarci al freddo, al caldo, altrimenti diventiamo debolissimi, debolissimi come il clima, debolissimi come il buco, eccetera. No? Non siamo temprati, abituati e flessibili, insomma, no? Ci indeboliamo. E inoltre anche viviamo emotivamente male poi tutti i cambiamenti, perché se non ce li aspettiamo e se non li accogliamo, poi ogni cambiamento diventa su un piano anche... Ci coglie di sorpresa, come diceva Elisa prima, no? Che ci lamentiamo, fa troppo freddo, fa troppo caldo, e perché nevica sempre? Perché emotivamente, diventiamo fragili emotivamente, psicologicamente. Mi viene da dire che la reazione, tra virgolette, fisica, no, del nostro corpo alle stagioni è una grande metafora, quello che tu stai dicendo. Se lo applichiamo a livello psicologico, il fatto di doversi non adattare passivamente, ma di doversi lasciare andare e vivere quello che ci capita, no? Fa freddo, quello che ci va costa. Bene, se fa freddo ci copriamo, farei un appello anche però all'informazione, perché devo dire che quando ci sono quei servizi al telegiornale, ai telegiornali vari, quindi non ne faccio una differenza, arriva l'estate e ci sono lunghi servizi sul caldo, arriva l'inverno e ci sono lunghi servizi sul freddo, come delle cose eccezionali. L'inverno fa freddo, l'estate fa caldo, cioè, ecco, mi sembra che anche il fatto di evidenziarlo nell'informazione sia un non essere naturale, no? In fondo siamo, come dire, ci adeguiamo tutti a questo trend di pensare che ogni roba è eccezionale, no? Possiamo... No. Leda, io ti ringrazio moltissimo, ti chiedo solo cosa stai facendo, perché adesso dobbiamo lasciare la linea alla pubblicità, che cosa stai facendo in questo momento di sabato, se non mi faccio troppo gli affari tuoi? Allora, sto cucinando per stasera, perché sto andando a trovare due straniere, una a cui è morto purtroppo il bambino ieri, ed era sola, e io mi domando se avessimo alcune donne a casa, come accanto in certi momenti, come ce l'avevamo una volta, se davvero ci manderebbero a casa se il battito del bambino non si sente, il giorno dopo che si ricoveri e muore. Questa è una cosa. Quindi era incinta e lo ha perso? Cosa? Lo ha perso, era incinta. È morto, era incinta, era stato un aborto spontaneo, ha fatto un monitoraggio, il battito era debole, ma nessuno l'ha trattenuta, nessuna donna era con lei a tutelarla. La seconda donna per cui mi muovo oggi è una senegalese che per 10 anni è stata chiusa in casa in Senegal da un capo spirituale che era suo padre, che voleva sposare lei e la sorella a due capi spirituali, due vecchi bavosi, 60 anni, non che tutti i 60 anni o 60 anni anch'io siano così, ma insomma fare sposare due ventenni così. Certo, no? Leda, facciamo così, siccome è molto bello quello che stai dicendo, è il modo in cui stai spendendo il tuo sabato. Sempre Roberta Giordano con voi. Non ci sono più le mezze stagioni, un programma che nasce oggi, in questi momenti, in questi istanti. Ci sono molti ascoltatori e ascoltatrici che ringrazio davvero, perché è sempre una scommessa, no? La nascita di un nuovo programma, cioè, chiameranno, chi lo sa, saranno interessati. C'è Paola Calvetti, sempre con me, scrittrice, Noi due come un romanzo, il suo ultimo libro, tra poco ne parleremo. Credo che Leda andasse di fretta, stavamo parlando del fatto che sta spendendo il suo sabato per essere vicino a due donne straniere, una donna senegalese e un'altra, adesso non ricordo che provenienza, ma per capire anche questo, un segno dei tempi, no? Spesso si parla di razzismo, ci lamentiamo, la convivenza, eccetera, invece pensate questa signora di Mestre che decide di passare il sabato, in genere un giorno piuttosto festivo, in questo modo. Veramente un abbraccio a Leda, se non riusciamo a recuperare. E questo dimostra che a cercarle le buone notizie ci sono. Ci sono, è vero. Il pomeriggio di Leda è una buona notizia. Ottima notizia, effettivamente, ragione Paola. Il numero è sempre il numero verde 800 24 00 24, per intervenire qui a Non ci sono più le mezze stagioni. Abbiamo parlato anche con Lonello Giuliacci. Gianfranco da Torino, un uomo dopo due donne. Gianfranco. Sì. Ciao. Ciao, senti, io mi ero già rallegrato sentendo il colonnello Giuliacci, che di fondo diciamo non è che si stia andando in modo così tragico, sembra, guardando le televisioni, leggendo le riviste, cose del genere, ovviamente, perché di fondo mi avrebbe fatto piacere avere a Torino tra qualche anno il mare. Ma chissà mai, La montagna, il mare a due passi, e quindi... ma diciamo così, perché è di fondo, è talmente tragiche le notizie che ci danno sempre l'inquinamento dell'atmosfera, quello va bene. Che quello sappiamo che comunque è oggettivo, no Gianfranco? A volte vogliamo un po' nasconderci dietro il dito, certo magari non sono così catastrofiche le previsioni, però bisogna sempre stare molto vigili, no? Guarda, ma sto vedendo che il mondo comincia, il mondo in generale, partendo anche da Obama, cosa detto, praticamente... E la reazione praticamente poco alla volta nel mondo si estende, diciamo, a tutti i livelli, praticamente la reazione forse provocata anche l'energia, non so, queste crisi, però praticamente quello di sporcare, inquinare meno. È un dovere di tutti, no? E come dicevi giustamente, Paola, lo ricorderà in questi giorni Obama, tra i vari aspetti legati ai provvedimenti è quello legato economico, ma è legato alle energie verdi. Energie verdi e anche si come investimento, poi dove intelligente. C'è la possibilità di farci vivere meglio. Giusto, Gianfranco, no? Dicevamo questo. No, senz'altro, praticamente. E però io ci aggiungevo ancora un'altra cosa. Sì. Non abbiamo il senso del tempo come, diciamo, tempo geologico, e pensare che diciamo 20.000 anni fa, non sto parlando di 500 milioni dei tempi dei dinosauri, del giurassico, ma 20.000 anni fa tre quarti dell'Europa era invasa dai ghiacci, la glaciazione di Worm aveva tutta la Cecoslovacchia, la Polonia, metà Germania, praticamente le Alpi, praticamente poi le varie grotte, abbiamo trovato le armi in Liguria, eccetera eccetera. Quindi vuoi dire che i cambiamenti ci sono nelle grandi epoche, nei grandi periodi, anche se noi adesso stiamo dando il grosso contributo che prima non c'era. Un altro lavoro, però praticamente puoi vedere praticamente dall'epoca romana che andava con le gonnelline, eccetera, praticamente ci sono state mini raffreddamenti, variazioni forse di un grado, due in più in meno, praticamente, ma ce ne sono, deve essere stati un paio praticamente in 2000 anni. Diciamo, se l'uomo dà una mano e il mondo e la natura ci aiuta, praticamente penso che forse una speranza di non avere il mare a Torino ce l'abbiamo. Forse una speranza ce l'abbiamo. Gianfranco, dimmi solo che cosa stai facendo in questo momento o che cosa fai nella vita, se ti va. Che impicciona la Giordano, eh? Per i fatti degli altri. È una curiosità proprio umana dal cuore, questa, se me lo vuoi dire, Gianfranco. Allora, ho accompagnato mia moglie praticamente a fare la spesa, perché sono stato in ufficio, sono uscito e poi ho accompagnato mia moglie, adesso a fare qualcosa per la casa, visto che il sabato è classico, i mercati sono aperti praticamente. Nella vita io mi occupo delle tasse altrui. Che tasto dolente questo, che anche quello, come quello di mantenere la natura e il pianeta nelle migliori condizioni possibili, è un dovere comunque, quello di pagare le tasse. Certo, non fa piacere a nessuno, ma d'altronde se no le infrastrutture, i servizi, le cose come ci sarebbe, cosa si pagano se non paghiamo le tasse, giusto Gianfranco? No, sono d'accordo, ecco. Sempre con grano sali, sempre con compressione, certo. del caso umano, sempre bisognerebbe arrivare a capire praticamente se è una violazione fatta apposta oppure certo. È una distrazione. Le distrazioni. Senti, ma nessuno ti aspetta mai sotto casa per caso, Gianfranco, te? Sì, quando avevo 18 anni. Vabbè, le belle donne, vabbè. Grazie mille Gianfranco, salutaci Torino, se dovessi arrivare il mare facci sapere. Grazie. Ciao Gianfranco. Ci sono diversi ascoltatori, ancora c'è Silvana da Pordenone, c'è Adriano da Prato, sempre al numero verde 800240024, però a questo punto vorrei chiedere a Paola Calvetti, visto che dicevamo che l'ultimo libro... Se nel mio romanzo ci sono le mezze stagioni. Ecco, noi due come un romanzo. Ci sono, allora, un segno delle mezze stagioni, delle stagioni vere che ci sono ancora nel tuo romanzo, è che ci sono tante lettere d'amore. Sì. Spedite, mi pare, più o meno tradizionalmente, non spedite, le mail sì, di adesso. Tradizionalmente. Quindi... da New York, dove lavora il protagonista, che è project manager della Morgan Library insieme all'architetto Piano, e Emma che fa la libraia a Milano. E le mezze stagioni ci sono molto nel romanzo, perché la meteorologia, tra l'altro, interviene anche e censura uno degli incontri attraverso la grande nevicata del 2003, degli incontri tra Emma e Federico. È una storia d'amore, però è una storia d'amore dove le mezze stagioni del cuore anche sono molto importanti. In fondo Emma e Federico sono quello che convenzionalmente si definisce due persone nella mezza stagione della loro vita, perché sono due cinquantenni che si rincontrano dopo essere stati l'uno per l'altra il grande primo amore. E che cosa succede a 50 anni ritrovarsi? Quell'amore lì cambia ognuno ha la sua esperienza. Io posso dire cosa succede ai nostri due protagonisti: si rincontrano e decidono di non lasciare questo incontro. Lui torna a New York e decide di aprire una casella postale al Postal Box Office di New York sulla 33esima, e lei, così un po' stupita, apre una casella postale in Piazza Cordusio a Milano. E quindi sì, a Milano, perché è una libraia milanese che ha una libreria speciale, però non ha una libreria tra virgolette normale, di tutto. Ha deciso di aprire una libreria che si chiama Sogni e Bisogni e vende solo e unicamente storie d'amore. E devo dire che, tornando alle notizie, perché non voglio troppo parlare della trama del romanzo, che no, quella si legge, sei sesta in classifica tra l'altro. Sì, oggi abbiamo visto le classifiche, dopo 12 giorni sono già sesta, quindi vuol dire è vero che sta arrivando anche in vari paesi all'estero. Sì, sì, il libro uscirà, il romanzo uscirà adesso in aprile in Francia con un bellissimo titolo, si intitolerà L'amour est à la lettre A, con la maiuscola. Poi uscirà in Spagna, in Olanda, in Germania. Ma quello che volevo dire è che sì, mi sono molto confortata oggi attraverso il mio romanzo, ma ero contenta perché il romanzo è tanto in classifica, perché in prima pagina sulla stampa c'è un'altra, non è una buona notizia, è un fondino, un pezzo breve di Massimo Gramellini, che è un giornalista, scrittore che io amo molto perché è molto anch'io attento molto ai sentimenti, e che sarà ospite lato, prossimamente qui, che parla e dice, rispetto alle brutte notizie o le belle notizie, no? Che la vendita dei libri va molto bene, Larson, va molto bene Twilight, quindi i vampiri, storia di vampiri innamorati, cioè i bestseller legati anche poi ai bestseller stranieri film. In questo momento dice: il cittadino piegato dalla crisi sembra voler leggere e sentir parlare soltanto di svago, è una rimozione vera e propria, ma sarebbe sbagliato bollarla come la prova che la democrazia consumista ci ha spolpati di una coscienza civile, eccetera eccetera eccetera. E lui dice: credo piuttosto che la fine del capitalismo dei debiti, tra virgolette, coincida con il rifiuto, e veniamo alle buone notizie, di una comunicazione basata sulla denuncia ansiogena invece che sulla proposta. E quindi io credo che non si tratti di scrivere un romanzo d'amore perché così ci distraiamo, per evadere, per non sì, pensare. Io ho voluto scrivere una commedia romantica, quelle che andiamo a vedere al cinema. Poi tanto di amore abbiamo sempre bisogno tutti, chiunque si nasconde. E anche perché, ecco, però anche così avevo voglia io di scrivere una storia positiva, che non significa necessariamente a lieto fine, anche se questa lo sarà. Una storia positiva non significa che nella storia non c'è la realtà, i due personaggi sono due contemporanei come noi, ma ha ragione Gramellini, cioè smettiamola di lamentarci, prendiamo coscienza, è vero, dal tempo, dalle mezze stagioni, l'inquinamento, la crisi economica, è vero che c'è, attendiamo proposte da chi è preposto a farcele. Grazie. Grazie a te Paola Calvetti. C'è Silvana da Pordenone, sì, abbiate pazienza se non riesco con molta velocità a far passare tutte le telefonate. Intanto tanto grazie, perché sono in tanti, grazie, che ti chiamano veramente, quindi... sì, sono felicissima. Fanno tante brevi. Mi sento molto in compagnia. Silvana da Pordenone, eccoci. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno, buongiorno a te Silvana. Che si dice a Pordenone? Com'è il tempo in questo momento? Beh, fa freddino. Vabbè, ma... dice che domani ci sarà la neve anche qui. Anche bene, lì? Sì, il colonnello ce l'ha detto, bello. Tutto il nord coperto dalla neve. E sul resto, Silvana, di cosa volevi parlare? Del fatto ma io volevo dire, ok, non ci sono più le mezze stagioni, le sì, cose cambiano, e dico, è meno male, cioè io non faccio quello che faceva mia mamma non faceva quello che faceva sua madre e via di seguito. Sei aperta al cambiamento, perché dice fisiologico, insomma, le cose si evolvano. E poi c'è la crisi, è vero anche questo, ma io dico che magari ci fa solo che del bene. Esatto. No? Non si impara niente di buono se non c'è un po' di sofferenza. Io mi auguro che questo ci insegni leggermente a volare basso, perché non lo so, cioè io vivo nel mondo della ristorazione, sono con mia figlia che gestisco un piccolissimo trattoria, così proprio a conduzione familiare, e a volte ho il contatto con la gente che sono amici, clienti, tutto quello, però cioè, al di fuori di qualsiasi portata mentale, esigenze pazzesche, mamme che non chiedono ai bambini di un anno cosa vuoi mangiare, ma non critico la mamma, cioè critico come un bambino non sa, gli devi dare tu le regole, no? Perciò dico, impariamo a volare basso. Magari ci fa solo che bene. Silvana, tra l'altro devo dire, mi ricordo che l'ideogramma, così si chiama, cinese, di crisi è lo stesso per la parola opportunità. Quindi uno esatto. cerca di confortarsi così, diciamo che ma dalla crisi ma si io dice non che credo che sia un conforto buonista o così. No, dici che è autentico, che no, è io oggettivo. Credo che davvero nella crisi ci sia la possibilità, ma non solo nella crisi economica, in ogni situazione di Paola crisi. Paola è un ottimista, bisogna io dire che ne ha passate ottimista. Di tutte, ma è sempre sì, molto nella mia vita, coriacea. Sì, esatto, ma più che coriacea, mi sono anzi ammorbidita, bisogna affrontarle e come dice giustamente l'ascoltatrice, più che volare basso, volare giusto, cioè ok, take it easy, che non vuol dire lasciar perdere, ma è vero che in ogni crisi c'è un'opportunità, ma in una crisi sentimentale, in una crisi di amicizia, in una crisi economica, in una crisi di lavoro, è vero che si annida sempre una possibilità, io ne sono assolutamente certa. Grazie Silvana, ne sei convinta anche tu più o meno da quello che dicevi, quindi sì. ti ringrazio moltissimo, auguri, in bocca al lupo per la tua trattoria, mi piacerebbe moltissimo prima o poi passare da quelle parti, mi piace, ma cos'è, tipo una vecchia trattoria la tua? Il nostro motto è masticate friulano. E masticate piano anche, grazie Silvana. Buona giornata. Ciao Silvana, a te. Numero verde 800 24 00 24 il numero verde. Allora mi veniva in mente, Paola, di unire due cose a proposito della crisi, una cosa che è piuttosto sorprendente. È il direttore dell'Istituto Mario Negri, Silvio Garattini, che cosa ha detto in questi giorni su Libero, mi pare? Che dice i crolli in borsa, quindi tutta questa crisi, tutta questa cosa enorme che è successa a livello mondiale, dice la causa potrebbe essere l'abuso di cocaina, perché non so se avete sentito che Milano è in testa in Europa per l'uso e quindi abuso di cocaina, e dice è molto diffuso l'uso in tutti gli stadi della società, economia compresa, siccome Milano è il centro dell'economia e della finanza, consuma molta più cocaina per milione di abitanti rispetto a Lugano e Londra, è un fatto questo secondo l'esperto che incide molto in modo rilevante sulle capacità di prendere delle decisioni importanti, no? E dice, siccome l'assunzione di cocaina porta a due stati d'animo, prima l'euforia, la lucidità, la grande energia e poi depressione, fatica eccetera, questi stati d'animo possono aver acuito la crisi economica facendo giocare d'azzardo e sbagliare i vertici della finanza. Pensate voi se in che mani siamo. In che mani siamo. E poi un'altra cosa legata a questo è che a New York è nato di recente, pensate, il segno dei tempi, no? Dove non ci sono più le mezze stagioni, un club di fidanzate e mogli dei banchieri di Wall Street che sono falliti. Perché è nato questo club? Una specie di alcolisti anonimi. Perché dico che molti di questi perché si devono abituare a un nuovo tipo di vita, brava, un nuovo stile di vita. E anche perché questi ex ricchi banchieri colpiti dalla depressi. Crisi, molti di loro passano il tempo a bere, passano in giro per i bar, e queste donne poverine si riuniscono tra loro due volte alla settimana per parlare dei problemi, delle liti in famiglia, di queste. Pensa un po', insomma, per dire, no, come a volte certi fenomeni portano poi ad altri tipi di atteggiamenti. In questo caso la creazione di un club che effettivamente a New York, cioè, si riuniscono tutte in questo. Ecco qui Valeria Della Valle, tra pochissimo vorrei sentire però Adriano da Prato, che ha chiamato sempre al numero verde 800 24 0024. Ciao Adriano. Ciao carissima. Buon sabato a te. Prato. Grazie. Quindi ci siamo spostati verso il centro adesso. Prato. Quindi Prato. In Toscana. Sì, Toscana. Come va lì l'economia, il tessile, i cinesi tanto presenti da quelle parti? La crisi si sente, Adriano? Sì, assolutamente, un settore sta andando a morire, chiudano addirittura delle fabbriche che erano impensabili perché erano dei colossi europei, non nazionali o regionali. Beh. E niente, purtroppo non c'è, ha toccato una nota dolente, non c'è praticamente, non viene data la possibilità alla gente del posto di poter compararsi con appunto con i cinesi, perché è la più grande, è la più alta comunità d'Italia. Infatti, Prato. Sì. Ne parlano addirittura anche in Inghilterra, figuriamoci. Prato è mi viene in mente il bellissimo romanzo L'età dell'oro, che è la storia di un tessile, di un industriale di Prato, di libro di Nesi, di Edoardo Nesi, un bellissimo romanzo che racconta appunto di un'azienda del tessile a Prato e della trasformazione che ha avuto per appunto l'arrivo dei cinesi, ecco. Paola, tra l'altro, è scrittrice, ma una divoratrice di libri incredibile, non so quante ne avrà letti in vita sua. Quindi, insomma, sta cambiando un po' volto anche Prato. Sì, in una maniera molto veloce, molto più veloce di quello che pensavano, appunto perché hanno molte agevolazioni anche da parte delle amministrazioni comunali e regionali, i cinesi, mentre invece quei poveri industriali, quei pochi che sono rimasti, sono molto bacchettati anche con normative, mettersi in regola con determinate cose e spese, quindi arrivano a un certo punto che magari non ce la fanno più e decidano di chiudere, ecco. Mm. Senti, ma tu Adriano, come si diceva prima anche con alcune ascoltatrici, con Paola Calvetti, sei convinto che dalla crisi si possa tirare poi fuori il meglio, che chi insomma ha le capacità e la voglia anche di essere propositivo e non solo lamentoso possa dare poi una speranza, insomma, che in realtà ci si possa rialzare in piedi poi proprio in un momento di crisi, no? Per reazione, oppure sei un po' più pessimista tu? Ma è pessimista, non al 100%, però ecco, io so che ci sono delle persone, io sono tutto un altro settore, faccio la guardia giurata, e vi sento sempre la notte, tutte le repliche di Radio 24, mi fate tanta compagnia. Eh beh, tu fai compagnia a noi, se no la notte uno dice che vado a fare. Sì, sì, tutti, E infatti avevo telefonato per quello, poi per quanto riguarda Giuliacci ve lo dirò. No, nulla, io so che ci sono gente che hanno tantissima volontà, però capito, la volontà ci vuole sia da parte degli imprenditori che da parte di chi governa, perché logicamente se non gli danno i mezzi per alimentare appunto questa volontà, dici, poi le difficoltà a volte non sempre si riescono a superare. Adriano, ti ringrazio moltissimo di aver chiamato e spero di risentirti presto. E poi ricordo che non ci sono più le mezze stagioni, tutti i sabati dalle 14 alle 15. Grazie Adriano, salutaci Prato. No, volevo soltanto dire una cosa di Giuliacci. Sì, del colonnello. Veloce, perché sì. Purtroppo abbiamo parlato di altro. Sì. E niente, io, benché è una persona bravissima, io di una simpatia mostruosa, sia professionalmente parlando, l'ho vista anche l'altra volta, scherzi a parte, è una persona... No, e lo conosco da molti anni, sì, è veramente molto affabile. Però purtroppo lo devo un po' contraddire su questo discorso qui, perché io con i lavori, io prima di tutto sono allergica all'aria condizionata e la odio, quindi Anch'io la odio, proprio... E poi con il lavoro che faccio io all'aperto, quindi il freddo, la notte... Hai solo voglia di caldo. Non tutti lavorano in ufficio, purtroppo, e si possono permettere le climatizzazioni. Mm. Io mi sono accorto proprio, faccio veloce, se no prendo tutto il tempo io mi sono accorto proprio, il clima è inutile negarlo, cambia, perché io mi ricordo quando ero piccolino, io che andavo alle elementari, alle medie, le belle giornate, il clima abbastanza caldo, che addirittura si stava molto, iniziava da aprile fino ad ottobre, si faceva le sue pioggerelline regolari, se no sarebbe la fine, ma adesso fino alla metà di giugno, e sono diversi anni ora, noi addirittura la notte portiamo la divisa invernale. Fa freschino, fa ancora freschino. Fine di giugno, perché la notte è freddo. Poi c'è molta differenza di clima tra la notte e il giorno, anche quello da dire. L'escursione, perché prima d'estate a mezzanotte potevi fare il bagno di mezzanotte, giocavamo a pallone a dorso nudo, adesso non ti ci metti, anche a luglio non ti ci metti. Ti berni. Quindi tu dici che è diventato più freddo, che in generale... Secondo me si sono allungati molto di più gli inverni, magari non freddi rigidi, però si sono molto allungati sia come cattivo tempo, come... Quindi non ci sono più le mezze stagioni, Adriano, possiamo dire. Secondo te... Una quarantina di giorni massimo, 30, come ha detto la vostra ospite, ne parlano molto in televisione, quindi basta che sia due giorni che fa caldo, sono 30 gradi a Milano. Allarme caldo sulla penisola. Sì. Disastri in convento. Quindi... ma secondo me è cambiato. È cambiato, ma sì, sicuramente. Ho tutto il rispetto per... No, ma lui effettivamente ha detto che è cambiato, ma che per certi versi siamo noi che abbiamo una percezione particolare. Grazie Adriano, grazie mille. Grazie a voi, siete molto simpatici, buon lavoro. Grazie, grazie, un abbraccio a te. Valeria Della Valle, Valeria. Sì, eccomi, sono qui. Perdonami. No, non... Ti ho tenuta al telefono. No, sto ridendo in senso buono, ascoltando quello che diceva Adriano. Sì. Quello che forse, insomma, tutti prima o poi nella vita abbiamo detto almeno una volta, che non ci sono più le mezze stagioni, ma mi veniva da ridere perché quello che diceva Adriano lo diceva già nel 1683 Lorenzo Magalotti, e diceva non ci sono, lui diceva non stagioni ma i mezzi tempi. No, non mi dire non che già allora, ma allora... Sì, ce l'ho scritto, ce l'ho davanti, mi sono preparata, 1683 e Giacomo Leopardi, che era anche persona molto spirituosa. Sei marchigiana, nonostante, tu? Sì, infatti, nonostante quel grande Recanati. Infatti, Leopardi prendeva questa cosa e la commentava in maniera appunto molto ironica e spiritosa, perché diceva: si continua a dire che non ci sono più queste mezze stagioni, ma il fatto certo è uno, è che io adesso che sono più grande sento il freddo molto più di quanto non lo sentissi. Ma allora è una questione di età, ma dici tu. Ma soprattutto diciamo sempre le stesse cose dai secoli, imperituri. Quando mi hai dato la parola stavo ridendo, perché in realtà probabilmente lo si diceva anche nel 500 e probabilmente anche nel 400. Intanto voglio dire 400, che Valeria Della Valle è docente di linguistica all'Università Sapienza di Roma, e proprio Valeria stava ascoltando, perché le volevo chiedere effettivamente questo luogo comune, no, del non ci sono più le mezze stagioni, anche come concetto, espressione linguistica, che dir si voglia. Ecco, tu quindi ci stai dicendo che già quindi lo diremo da qui, anche nel 4600 diremo la stessa cosa. Da qui all'eternità, per quale motivo? Adesso naturalmente non parlo di argomenti dei quali non so niente, cioè il clima e le stagioni, parlo invece un po' da linguista. Sì. E insomma sono quelle frasi, questa come tante altre, che in fondo ci servono anche per comunicare, anche nella loro banalità, anche nel ripetere sempre le stesse cose. Sono quante volte ci è capitato in ascensore di stabilire un contatto parlando del tempo, freddino, sì, sì, vero. E parliamo del tempo. Ieri parliamo del tempo. Ecco, allora adesso naturalmente la faccio semplice, insomma i linguisti parlano di una funzione fatica, cioè dicono quando bisogna stabilire una comunicazione, ecco, si ricorre a certi mezzi. Uno è quello di parlare del tempo, e quando si parla del tempo, per esempio, può capitare di ripetere non ci sono più le mezze stagioni. Non ci sono più le mezze stagioni. Quindi non sono solo gli inglesi che parlano del tempo ogni volta che si incontra uguale. Mi pare proprio di no, mi pare che lo facciamo tutti. E appunto, questo lo dico così come osservazione linguistica, quante cose ci capita di dire, perché dobbiamo riempire un silenzio, perché vogliamo agganciare la comunicazione con un'altra persona, insomma non riusciamo, non possiamo, è impossibile essere sempre originali. Capita anche ai migliori tra di noi ogni tanto di ripetere le frasi fatte. Valeria, sentiamo un attimo Manuela da Cuneo, il numero verde 800 24 00 24, resta ancora un attimo con noi. Io chiedo scusa ai tanti ascoltatori e ascoltatrici, sono felicissima che abbiate chiamato, però poi i tempi sono un po' quelli. Manuela, riesci a essere sintetica, mi scusi? Sì, buongiorno a te Manuela, grazie davvero di aver chiamato. Sì. La Valeria mi ha fatto ricordare una cosa molto bella della mia nonna, che mi diceva, a proposito del tempo che cambia e che... e che comunque nel tempo si dicono sempre le stesse cose, non la sostiene, ma che da quando l'uomo è salito sulla Luna le cose non sono più andate bene, per cui anche il tempo è incominciato a fare... Qualcosa hanno toccato sulla Luna, secondo qualcosa me. Qualcosa hanno toccato, no? E mia nonna è morta, mi domando cosa direbbe di me, che sono decisamente una ragazza con il quale appunto si conferma che le stagioni non sono più quelle di una volta, perché io sono totalmente stramba, nel senso che abito con una donna da anni, la nostra famiglia è composta da 7 gatti... Ma nel senso che la tua compagna? Sì, esatto. In più faccio autista, per cui lavoro tipico maschile, ed insieme con lei abbiamo aperto un centro revisione, quindi ancora lì una cosa totalmente maschile. Senti Manuela, sono contentissima che tu mi dica questo, perché anche questo è un segno dei tempi. Sì, prima parlare di coppie cambia, dello stesso sesso sembra una roba fuori, invece voi vi amate, fate a vostro modo una coppia, una famiglia, insomma, con i vostri gatti, e lo dici con tanta naturalezza e mi fa felice questa, a me personalmente, poi non so cosa ne pensano gli altri, però è anche un po' una metafora, appunto, come ricordava prima scrittrice, che effettivamente i tempi, le stagioni cambiano, e cambiano anche i rapporti, cambiano anche i lavori, per esempio. Questo è un lavoro maschile, io mi trovo benissimo con un ambiente maschile, non c'ho nessunissimo. Ma nel senso che tu guidi un camion? No, perché io guido soltanto un autobus per il momento. Vabbè, un autobus, grande. Manuela, la sigla ci dice che ci dobbiamo salutare. Io ti ringrazio infinitamente, salutaci la tua compagna, ringrazio Valeria Della Valle. Valeria, ci sentiamo presto. Senz'altro, arrivederci. Grazie, un bacio, un abbraccio a te. Ringrazio Paola Calvetti, Gigi Borghi e Giorgio Giacomo Spunta, perdona, alla parte tecnica, che ci hanno assistito nella regia. Grazie Roberta Giordano, vi dà appuntamento con Non ci sono più le mezze stagioni a sabato prossimo alle 14:00.